Piazza 24, i gialli della storia. Ma era successo veramente sto giro, no? Sì, questa volta completo il percorso e tutto. Completi il percorso e lo porti fino in fondo? Sì, sì. Grazie. Ok, non hai messo la data? Data d'ingresso in comunità. Stampiamo il carro di fuoco. 06-2009. Stavolta niente, portiamo a termine. È un impegno costante per far crescere la speranza di una nuova vita. Giovani e terapeuti insieme ogni giorno nei vari centri di recupero sparsi in tutto il mondo. Il centro di Pavia è molto di più che un luogo di cura. Qui la lotta alla dipendenza dalla droga, in particolare dalla cocaina, vede coinvolti uomini di tutte le età e provenienti da diverse regioni e soprattutto di diverse classi sociali. I tossicodipendenti, una volta riabilitati, spesso restano per aiutare chi ne ha ancora bisogno. Oggi a Mix 24 raccontiamo una storia che accomuna tante persone. Una pericolosa illusione che, dopo aver distrutto affetti, famiglie e lavoro, si trasforma e diventa caparbia voglia di guarire. E per raccontare questa storia ascolteremo tante voci, a partire da Simone Feder, il coordinatore dell'area adulti della Casa del Giovane di Pavia. Poi Valerio, Fabrizio, Massimo, Roberto, Jason, che hanno vissuto l'esperienza della caduta e della rinascita e hanno deciso di raccontarla. Siamo all'interno di una comunità di recupero di giovani disagiati. Oggi purtroppo comunemente si parla di disagio ed è anche sempre più in aumento questo disagio. Ecco che la Casa del Giovane cerca di dare queste risposte alle varie forme di disagio. Cosa credi di poter fare tu per poter riprendere la vita che hai riposto nei bauli? Simone, Davide, Antonio. Tu Davide, cominciamo da te. Ti posso dire cosa non dovrei fare, cioè impormi di dovercela fare da solo. Alla Casa del Giovane arrivano un sacco di persone, tra le quali giovanissimi, soprattutto in questi ultimi periodi, giovanissimi assuntori di sostanze stupefacenti, tra i quali c'è un ritorno vortiginoso dell'eroina. Abbiamo anche situazioni che, di giovani disagiati dove famiglie non riescono a gestire anche l'educazione dei propri figli, di conseguenza ci chiedono un aiuto per essere anche supportati in questo sistema educativo che loro stessi non riescono a stare al passo. Oggi il disagio è trasversale sia come età sia come classe sociale. Oggi accogliamo anche persone laureate con problemi di cocaina, di alcol. Tu pensi ormai è associato la parola disagio alla famiglia degradata. Oggi non è più così. Ho 28 anni, sono alla Casa del Giovane da 22 mesi. Io ho una famiglia normale come tutte, come quasi tutte, diciamo. Non mi ha mai fatto mancare niente. Verso le medie ho iniziato a frequentare dei compagni di scuola in piazza e mi sono accorto che comunque il mio modo di fare, il mio carattere non era accettato, perché o forse timido o non c'entravo niente con loro. Quindi ero anche un po' la burla di queste persone, finché non è arrivato il giorno in cui mi sono stufato e è esploso qualcosa dentro di me che mi ha fatto cambiare. Quindi ho iniziato a prendermi il rispetto, non a guadagnarmelo. Diciamo, sono diventato bullo, non sopporti più veramente la gente, allora piuttosto che farla parlare gli metti le mani addosso. Cioè, tu basta che mi guardavi e la cosa poteva irritarmi o toccarmi che io comunque attaccavo discussione o venivo a metterti le mani addosso. E così è andata avanti, ho visto che comunque avevo il mio successo, ero accettato da tutti, inizi ad andare nei locali, inizi a frequentare gente sbagliata, inizi a usare sostanze, perché comunque devi essere al passo coi tempi o devi essere al passo con le mode delle persone. Mi sono accorto che le prime volte usando sostanze riuscivo a essere ancora più forte di quello che ero riuscito a raggiungere nell'arco degli anni che sono passati da quando ho avuto quella svolta. Allora inizia a entrare in giri di persone più grosse, inizia a frequentare locali sempre più alla moda, inizia ad andare in giro per l'Italia per ballare, per vedere gente. Mi piaceva, mi faceva sentire importante. Mi piaceva vestirmi, quindi magari compravo 10 paia di jeans, ne mettevo due, però io dovevo avere 10 paia di jeans. Andavo ogni settimana, cambiavo cellulare. Allora, quando ne avevano due gli altri, tu dovevi averne tre. Nella città di Milano vai a ballare, quindi devi avere un determinato abbigliamento, devi essere una determinata persona, devi avere una determinata macchina per presentarti in quei posti là. Non facevo fila, avevo il tavolo più bello nel locale. Bevevo Dom Perignon, cioè la serata iniziava che la gente guardava il DJ e finiva che guardavano me, perché comunque mi venivano messe delle ragazze immagine sul tavolo, quindi tu puoi immaginarti, nei locali non si poteva fumare, io nel mio tavolo fumavo, quindi mi ero creato una situazione che a me piaceva, cioè ti mettevano la corona e tu potevi fare quello che volevi, cioè il paese dei balocchi per un bambino. Io dovevo arrivare sempre al limite, cioè doveva essere un passo più avanti delle altre persone. Non mi reputavo un tossicodipendente, perché non pensavo di esserlo, pensavo di essere una categoria a parte. Ho 26 anni, sono entrato in comunità all'età di 18 anni per problemi di droga. Ho avuto un'infanzia un po', un'adolescenza un po', cresciuto in un quartiere di Milano un po' degradato, quindi ho cominciato presto a usare sostanze, già all'età di 13 anni, e niente, che mi hanno portato poi all'età di 18 anni a essere saturo, senza più voglia di vivere, di niente, e a sentirmi quasi già vecchio. E mia madre lavorava tutto il giorno, poteva seguirmi, quindi stavo comunque in giro praticamente tutto il giorno, e le compagnie più grandi, ammiravi la gente più grande, i ragazzi più grandi che facevano un certo stile di vita, sembravano ragazzi, i grandi supereroi tra virgolette, che hanno rispetto, che con la prepotenza comandano, sono cresciuto così e i miei modelli erano quelli lì. E la droga, cominciando a 13 anni appunto, piano piano mi ha portato alla dipendenza, finché dopo arrivi anche a commettere dei reati appunto per usare sostanze. Ho 17 anni, sono nato in Colombia, in un posto dove non so come, proprio degradato. Un po' la mia vita parte proprio da lì, proprio dal posto dove sono nato, dall'ambiente in cui sono cresciuto. A 10 anni devi già essere immerso in un giro, devi prendere spunto, no, da loro, da quelli più grandi, no? Devi guadagnartela, no? E da lì è dove ho cominciato io, no? Da queste persone qua che usavano sostanze, facevano rapine, rubavano. Quindi io, vedendo tutte ste cose, volevo essere parte un po' come erano loro, no? Perché se in quel posto lì, dove nella mia città dove abito io, non facevi certe cose, non eri nessuno. E io proprio non volevo fare fatica, me la volevo guadagnare facile, no? Volevo avere i soldi facili, non volevo andare a scuola, lavorare e neanche a parlarne, quindi ero proprio attratto da questa vita qua. Abbiamo deciso di venire qua in Italia per uscire anche un po' dalla degradazione che c'era un po' giù in Colombia in quei periodi. Anche qui in Italia è partito un po', come si può dire, lo stesso giro, no? Dalla scuola. Avevamo una bella compagnia grossa, tanti ragazzi, abbiamo cominciato tutti un po' con le sigarette, poi con gli spinelli, poi niente, per diventare un po' più grandi, poi negli anni 70 così girava molta eroina, ci sono cascato anch'io, diciamo, no? E mi ricordo anche le parole di quel mio amico, fa: no, tu non farlo, non l'hai ancora fatto, non farlo. Ho detto: no, io lo faccio, perché non l'ho mai fatto fino adesso, ma adesso lo voglio fare. Poi ho cominciato ad andare allo stadio. Prima di entrare dentro lo stadio si passava a fare la storia e dopo frequentavamo lo stadio, belli carichi, no? Io una volta dovevamo partire per andare a Firenze a vedere il Milan in trasferta, già alle 7, alle 8 del mattino, gente che magari comunque si metteva lì nello specchio, uno specchio grande, si metteva giù le strisce di cocaina e si caricavano bene. E lì e poi è cominciato tutti i giorni. Ci sentivamo forti, Superman. E sono andato avanti così fino al 94. Poi nel frattempo ho conosciuto mia moglie, ci siamo messi insieme, è nato mio primo figlio e lì poi io comunque ho smesso. Poi lavoravo anche al bar, un bar di quartiere dove tutti si ritrovavano, si beveva, è cominciato ad arrivare nel mercato la cocaina. Mi sono trovato ancora vulnerabile. E da lì è cominciato di nuovo, a quel punto praticamente non mi voleva più nessuno. Poi nel frattempo ho avuto anche un altro figlio, dunque mi sentivo veramente, se posso dire una parolaccia, una merda. È stato un odio incredibile nei suoi confronti. E io un rapporto con lui non lo volevo più ricominciare perché praticamente io non mi fidavo più. Beh, ai figli ho detto che il papà era via per lavoro e ho cercato di far capire a loro che non era successo niente. Io non so se ho fatto bene o male, però per riuscire ad andare avanti era l'unica soluzione che potevo trovare. E quando ci sono dei problemi così grossi, il rapporto si rompe o si rinforza. In questo caso si è rinforzato tantissimo. Le nostre comunità nate 40 anni fa da Don Enzo Boschetti, che è diventato servo di Dio, si sta aprendo la causa di beatificazione, sono nate soprattutto come risposte di comunità di vita. Prendersi carico a 360 gradi di tutta la persona. Cerchiamo quindi di dare risposte diversificate a seconda del tipo di disagio che stanno vivendo. Chi entra da noi alla Casa del Giovane, prima di entrare fa una serie di colloqui e di assessment valutativo in modo da capire quali sono i bisogni, quali sono le risorse che lui ha, in modo da progettare insieme un percorso educativo. Abbiamo costruito in 30 anni di lavoro dei laboratori dove ci sono all'interno i cosiddetti maestri di lavoro che seguono i nostri ragazzi, che insegnano loro a lavorare, che sono non solo maestri d'opera ma maestri anche di vita, che stanno con loro. Non si sentono soli, si sentono protetti, si sentono accolti, sentono che gli vuoi bene. La mia vita è totalmente cambiata dall'ingresso in comunità, ho riscoperto tanti valori che non avevo mai vissuto, come l'amicizia, il rispetto, quello vero e non quello da piazza, tra virgolette, il vivere insieme, il condividere qualcosa insieme con gli altri. È stata una rinascita venire qua. Ho visto gente che faticava con me, più avanti di me, mi sono voluto fermare. Adesso sono qua da 8 anni, lavoro qua come operatore. Ho cominciato a studiare, mi sono diplomato. E adesso mi sono iscritto anche all'università. C'è stata un'esperienza con un ragazzo, Massimo, che era entrato in comunità qualche anno fa, che era molto depresso. giorno dopo giorno, parlandone, magari piangendo, sfogandosi di tutto quello che lui aveva dentro, e anch'io ascoltandole, magari anch'io a volte sfogandomi, sicuramente è nato questo rapporto che adesso lui ha finito la comunità, sta bene, è ritornato a casa sua con la sua famiglia, viene qua periodicamente una volta al mese a trovarci. Pensavo di non valere niente, piano piano ho cominciato a riscoprire che avevo anch'io delle risorse da poter trasmettere anche agli altri e vedevo che anche gli altri nello stesso tempo stavano bene. Mi sento di vivere, soprattutto, di far parte di qualcosa, mentre prima mi sentivo di non far parte di niente. Era talmente forte la mia depressione che quando si andava a pranzo con gli altri io ero sempre comunque chiuso in me stesso, non riuscivo a parlare più di 10 secondi insieme a uno, ero già stanco. Avevo molta paura, non sapevo più chi ero. Poi alla fine sono uscito dai laboratori della falegnameria, sono andato con una persona a fare i trasporti in giro per Pavia. Questa persona si chiama Valerio, che per me è più di un fratello, e mi ha detto una frase che io dicevo sempre a lui, dicevo: Valerio, te mi hai dato tanto, no? Mi hai aiutato, non so come hai fatto e ancora adesso mi stai dando tanto e non so come fai ancora adesso a sopportarmi per certe cose. E lui mi ha detto: Massimo, tu dici sempre che io ti ho dato tanto, ma anche tu hai dato tantissimo a me. Ho fatto veramente fatica, perché il mio carattere mi portava comunque, come quando ero fuori, a essere scontroso, a sentirmi attaccato da tutti, a sentirmi giudicato. Invece poi a un certo punto c'è stata una svolta. Perché? Perché ho capito che le persone che sono qua, le persone che mi seguivano, comunque che vivono la giornata con me, mi accettavano per quello che sono. Le regole e lo stile di vita della Casa del Giovane mi hanno aiutato molto, perché comunque ero arrivato al punto che io le regole me le dettavo da solo. Ho riscoperto che la vita è questo, è fatica, è pazienza, è stanchezza, è anche momenti felici, amicizia. Mi reputo fortunato di aver trovato una comunità anche come questa, che proprio ti insegnano a vivere giornata, no? La giornata. Ora come la sto vivendo, sinceramente penso che questa sia la vera adolescenza di un ragazzo della mia età, no? Dove impari, dove vai a scuola normalmente, non vai a scuola per vendere o per farti. Ogni giornata acquisisci qualcosa. Trovare persone più grandi che più o meno hanno avuto gli stessi problemi, non uguali, ti aiuta molto, no? Perché impari anche molto da loro, dal loro percorso che hanno fatto. Valerio, lo stimo molto, no? Lo vedo contento con i ragazzi, le cose che fa per la comunità. È come un punto di riferimento, no? Vedere una persona che ha fatto più o meno un po' i giri che facevi un po' tu e vederlo ora come ora che sta bene, mi dà uno stimolo in più, no? Che dico: ce l'ha fatta lui, ce la posso fare anch'io. Il mio futuro me lo vedo qua, comunque a dare una mano comunque a ragazzi che hanno avuto i miei stessi problemi e che li affrontano giornalmente. Mi piacerebbe continuare, poter dare una mano per quello che posso, più che altro trasmettergli che si può, faticando, tenendo duro e credendo in certi ideali che la comunità propone, cambiare vita. Mi piacerebbe veramente tanto aiutare persone che hanno le mie stesse difficoltà o che provano quello che ho provato io, quindi mi piacerebbe dare una mano. Per chi la fa la comunità, se entra, deve entrare convinto di quello che fa, perché sennò non serve a niente. E poi una cosa che voglio dire, che magari tanto lo so già che la gente dirà è sempre il solito discorso, ma io voglio dire lo stesso: non drogatevi. Oh, Sandro si sposa, cioè, con tutti i sacrifici, l'impegno che ci ha messo, la voglia, cioè, una bella cosa, no? È un esempio, penso, per tutte le persone che possano entrare in comunità o che stanno affrontando adesso un cammino. Cioè, hai visto a che punto è arrivato? Piano piano, faticando, me lo ricordo quando era entrato, eh? Sì, eh? Poi piano piano, giorno per giorno, questi sono gli obiettivi che poi si raggiungono se uno vuole e fatica e ci crede, ha fiducia nella comunità. Mi fa piacere, no, avere delle persone più avanti di me che arrivano a un passo importante come il matrimonio, che non è da poco. Poi dopo aver fatto un certo percorso, proprio perché anche un po' te lo sei anche guadagnato con le fatiche e tutto, Sandro se lo merita, se l'è guadagnato, se l'è cercato e quindi se lo merita di cuore. Proprio sono molto contento per lui. Anche lui ha avuto dei suoi momenti dove ha fatto fatica, voleva mollare magari, ha tenuto duro, ha avuto pazienza ed è andato avanti. Anche te, Gino, non devi spaventarti delle fatiche. Le fatiche ci sono, piano piano si superano assieme. Ci vuole un po' di buona volontà, sacrificio, però vedi, dopo gli obiettivi sono grandi, quelli che si raggiungono. Allora il sacrificio che fai adesso verrà ripagato tutto un domani. Però devi fidarti, cioè quando la fatica la fai con più persone, il peso da portare è più leggero, no? Mi raccomando, prendi da esempio questa cosa che ti serve. Piano piano. Piano piano, ci siamo anche noi, giorno per giorno. Se già sei mesi, piano piano fai i tuoi passi. E ogni mese metti dentro qualcosa, no? Una difficoltà in più che poi magari si può trasformare in positivo. La casa del giovane, con un impegno costante e generoso, fa un lavoro incredibile. Tenta di restituire alla vita uomini che quella vita l'avevano dimenticata. Fabrizio è oggi manager di una multinazionale, Massimo fa l'imbianchino e vive con moglie e figli. Valerio studia e fa l'operatore nella comunità. E anche Roberto ha deciso di rimanerci come volontario. Jason, dopo 7 mesi di permanenza, ha lasciato la comunità. Ma ognuno di loro, anche a coloro che non sono riusciti ancora a completare il percorso di recupero, quell'esperienza ha cambiato la vita. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it. Thank you.